Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Luigi Lazzareschi, 50 anni di Sofidel e di Rotoloni Regina, di Alessandra Tedesco. È uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico ed è un gruppo italiano nato esattamente 50 anni fa nella zona di Lucca, famoso distretto della carta. Parliamo del gruppo Sofidel, un nome che forse non è noto, ma se andiamo a vedere i marchi che produce scopriamo che detiene fra gli altri il brand Regina, dai rotoloni da cucina alla carta igienica. Tutto è iniziato nel 1966, quando Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi fondano una cartiera, come ci racconta Luigi Lazzareschi, figlio di Giuseppe e attuale amministratore delegato di Sofidel. La Sofidel nasce nel 1966 da due fondatori, Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi. Uno comprava, mio padre, carta per produrre sacchetti per il pane e per la frutta a quel tempo, e l'altro, diciamo, le vendeva. Si sono conosciuti e hanno deciso entrambi di prendere in affitto una piccola azienda vicino a Collodi, in provincia di Pistoia, Lucca, dove è nato Pinocchio. C'è una vallata lungo un fiume che si chiama Via delle Cartiere, e su quella via è stata, diciamo, avviata la prima cartiera, dove fu trasformata la tipologia di carta, che a quel tempo era carta camoscio, una carta che serve per produrre sacchetti di carta, in una carta che si chiamava carta crespata, che erano i primordi di quello che oggi conosciamo come carta igienica. La Sofidel aveva iniziato con meno di 10 dipendenti. Oggi ne ha più di 5.500. Il fatturato del 2015 sfiora i 2 miliardi di euro. Il gruppo è presente in 12 paesi in Europa, oltre l'Italia, e dal 2012 è attivo anche negli Stati Uniti. In Europa è il secondo gruppo per capacità produttiva, oltre 1 milione di tonnellate all'anno. Regina, come dicevamo, è il brand più famoso in Italia, ma ce ne sono molti altri diffusi all'estero. La prima svolta dell'azienda avviene negli anni 70, quando, oltre alla carta igienica, si iniziano a produrre rotoli di carta da cucina. La grossa svolta sugli attuali tipi di carta per uso igienico e domestico è avvenuta quando viene spostata, diciamo, la produzione dalla Valle del Pescia sulla piana di Lucca, precisamente in un paese che si chiama Porcari, dove oggi tuttora esistono le aziende e gli uffici principali del gruppo Sofidel. La grossa evoluzione quindi è avvenuta intorno agli anni 70 sulla piana lucchese, che oggi è il centro per questa tipologia di carta principale al mondo. È il distretto più importante in questa tipologia di prodotti. Sono anni dove il gruppo, dove l'azienda si sviluppa fortemente, anche in maniera proprio non propriamente organica. Il mercato in quegli anni lì sta crescendo notevolmente, i prodotti si stanno sempre più diffondendo nelle case degli italiani, e diciamo i due soci cominciano ad investire in diverse aziende sempre sulla provincia di Lucca, fino ad approdare negli anni 80, dove le quantità cominciano a essere tali e tante da cominciare ad approcciare i mercati esteri e ad esportare grandi quantità di prodotto dall'Italia all'estero. Un'altra svolta importante avviene, come avete sentito, negli anni 80 con le esportazioni. Export che però nell'ultimo decennio è stato quasi azzerato, sostituito da un'altra strategia: creare aziende all'estero e rilevare marchi, come racconta l'amministratore delegato di Sofidel, Luigi Lazzareschi. A quel tempo le esportazioni rappresentavano circa un 60% della nostra produzione. È a quel punto che abbiamo appunto pensato, se vogliamo continuare a crescere, forse dobbiamo vedere un attimino la nostra strategia, che essenzialmente poi deriva da quattro scenari importanti. Il primo è che il nostro prodotto è un prodotto molto leggero e molto voluminoso, e i costi di trasporto sono molto importanti. Secondo, vedevamo la grande distribuzione europea sempre più concentrarsi, quindi se uno vuol vendere a un cliente della grande distribuzione francese in Italia probabilmente deve avere anche accordi a Parigi. Terzo, le economie di scala incidono notevolmente sul nostro settore. Una cosa è produrre 100.000 tonnellate, un'altra cosa è produrne 1 milione di tonnellate. Quarto, ma non ultimo, sono i costi produttivi. È impossibile dall'Italia oggi poter pensare di esportare i nostri prodotti in Francia, non solo per i costi di trasporto, ma anche perché il costo dell'energia è la metà di quanto non costi in Italia. La stessa cosa per la Germania. O è impensabile poter vendere nell'est europeo quando il costo del lavoro magari è un quarto rispetto a quello italiano. Quindi la decisione è stata quella di andare verso un'internalizzazione, cioè piano piano esportare percentualmente sempre meno, ma andare a produrre vicino dove sono i consumi. La nostra fase di internalizzazione, magari quello ci tengo a dirlo, non è delocalizzazione, non siamo andati fuori per riportare il prodotto in Italia perché costava meno, ma siamo andati fuori per servire quel specifico mercato. Gli investimenti all'estero, come avete sentito, sono stati di due tipi: greenfield e acquisizioni di marchi già esistenti. Ecco una fotografia di come sono stati gestiti gli investimenti. Il primo investimento è stato fatto in territorio francese, poi il gruppo, diciamo, gli è piaciuto e abbiamo fatto altri investimenti. Inizialmente li abbiamo fatti greenfield, cioè dal campo vergine. Questo è durato fino dal fine degli anni 90 fino alla metà, fino al periodo, diciamo, anticrisi, fino al 2007. Dopo c'è stata un'altra fase evolutiva della strategia, il mercato cominciava a crescere meno, quindi non potevamo aggiungere più che tanta capacità produttiva sul mercato perché avremmo distrutto il mercato e noi stessi. A quel punto la strategia è cambiata e siamo andati attraverso acquisizioni. Quindi tra i progetti greenfield e le acquisizioni, oggi in Europa siamo presenti in 12 paesi con diversi stabilimenti, più o meno grandi, più o meno sono 28 gli stabilimenti che abbiamo in Europa, tutti, diciamo, oltre ad avere la commercializzazione anche la produzione. Oggi l'Italia rappresenta meno del 20% sul nostro fatturato complessivo. Il paese non è nemmeno oggi il paese singolarmente più importante, perché oggi il paese singolarmente più importante come quote di mercato e presenza, tonnellaggio, fatturato è l'Inghilterra. Se questo è stato il quadro dell'internazionalizzazione, vediamo ora l'altra I tanto cara alle aziende, l'innovazione tecnologica, un aspetto che conta molto per Sofidel, come spiega ancora la D Luigi Lazzareschi. Una carta tipo asciugatutto da cucina piuttosto che una carta igienica agli occhi di molti può sembrare tutta uguale e immutata nel tempo. Se vediamo soltanto magari quali erano i prodotti solo 5 anni fa, ma se potessimo vedere quello che era 10 o 15 anni fa, i prodotti sono molto cambiati. Sono anche molto diversi da paese a paese. Vi sono alcuni paesi dove magari sono più importanti certe caratteristiche, tipo per esempio la resistenza in Germania, piuttosto che non la morbidezza in Inghilterra. In Italia magari sono apprezzate, diciamo, altre caratteristiche, le goffrature, la stampa sull'asciugato della cucina, che magari non è apprezzata su altri mercati, per esempio in Francia. Seppur apparentemente i prodotti possono sembrare gli stessi, tecnologia ce n'è molta e gli investimenti per tonnellata prodotta nel nostro settore sono molto, molto elevati. È uno dei settori forse a più alta capitalizzazione. Un investimento che oggi possa avere senso nel nostro settore per un impianto greenfield è sicuramente superiore a 100 milioni. Nella storia del gruppo Sofidel, caratterizzato da una crescita esponenziale del fatturato e dal numero degli stabilimenti, ci sono stati alcuni momenti di difficoltà, come l'incendio che distrusse uno stabilimento in Italia. Questo accadde, mi sembra, il 30 maggio dell'88. Dove un incendio bruciò completamente uno dei nostri principali stabilimenti in Italia, dove tra l'altro veniva appunto prodotto il marchio Regina, che era entrato in comunicazione da appena pochi mesi. Quindi ci trovavamo ad avere grande richiesta sul mercato, il prodotto che stava crescendo, l'azienda che in teoria cresceva, e il giorno dopo, cioè in poche ore, l'azienda completamente distrutta. Qui devo dire che la forza degli imprenditori, mio padre, Stefani, i buoni rapporti che avevamo e che abbiamo tuttora con tutte le maestranze, ma anche con i competitor che ci aiutarono ad approvvigionarsi di materie prime, di materiale, fu determinante. E lo stesso anche il rapporto di trasparenza che abbiamo sempre avuto con la parte pubblica e politica fece in modo che potessimo ricostruire lo stabilimenti a tempi di record e non perdessimo poi alla fine quote di mercato. Questo è l'episodio più importante. Poi sicuramente ci sono stati tanti altri episodi. Per quanto riguarda la crisi, nel 2008, fino a quel tempo la politica del gruppo era quella di costruire impianti nuovi. Vedendo però che il mercato, diciamo, cresceva meno, il nostro mercato non ha avuto grandi crisi, non ha avuto riduzione della domanda, perché prodotti come i nostri sono prodotti di primaria necessità che vengono usati quotidianamente. Però abbiamo visto che un rallentamento della domanda, e a quel punto ci siamo chiesti che cosa dovevamo fare, e lì siamo comunque continuati a crescere anche in un periodo, diciamo, di crisi, cambiando strategia da impianti greenfield ad acquisizione. Diciamo, la cosa, diciamo, ha premiato noi, ma ha premiato anche tutto il settore. Sofidel è stata nel 2006 la prima azienda italiana che ha aderito al programma del WWF Climate Savers, che si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica e l'impatto ambientale delle imprese entro il 2020. Nell'ambito delle riduzioni delle CO2 abbiamo fatto molti investimenti un po' in tante aziende in Italia e anche fuori. Per fare alcuni esempi, in Italia oggi, perlomeno in Toscana, siamo uno dei principali produttori di energia solare, perché abbiamo impianti fotovoltaici, ma abbiamo anche costruito due impianti idroelettrici. Per quanto riguarda l'acqua e la salvaguardia del patrimonio idrico, siamo impegnati per diminuire in maniera sostanziale i consumi d'acqua. Per esempio a Lucca, sull'impianto più grande che abbiamo oggi a Lucca, abbiamo inaugurato l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, un impianto molto importante per riutilizzo dell'acqua. Quindi siamo riusciti a diminuire di 2/3 il nostro consumo di acqua, che è già uno dei più bassi nel nostro settore specifico. Per quanto invece riguarda la parte forestale, noi ci siamo dedicati essenzialmente a utilizzare fibre certificate. Oggi il 99,8% delle nostre fibre proviene da queste due certificazioni. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.